di farvi una presentazione, diciamo così, allegra di questo tema che così è un po' funereo da un certo punto di vista. Ci tenevo a presentare in questa occasione il Cant di Weil, che ovviamente agli specialisti è noto, ma non come qualcuno di noi vorrebbe. A mio modesto avviso, il volumetto Problemi kantiani, Problem kantien del 1963, poi nel 70 con un capitolo in più dedicato appunto al male radicale, è uno di quei testi che, come ha detto qualcuno, contiene nella storiografia kantiana dei risultati e delle proposte definitive, sì, sempre definitive se lo si leggesse, no? E se lo si discutesse più ampiamente di quanto non si sia fatto finora. Lascio cadere la prima parte, tutta la prima parte della relazione, che era una parte, diciamo così, generale, maggiormente dedicata a Weil e agli antefatti di Weil. Indicherò solo schematicamente questi antefatti. Dietro Weil c'è ovviamente il Cant di Krüger, altro libro a mio avviso molto interessante che non mi pare sia comunemente noto. Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik è un libro del 31, tradotto in francese nel 63, al quale Weil fece la prefazione. Nel 32, prima di lasciare la Germania, Weil fece una recensione molto favorevole su Kantstudien. Che cosa contiene questo testo? È un testo che con molta intelligenza ribadisce il fondamento, diciamo così, morale della ricerca kantiana e in particolare delle tre critiche, e in particolare della connessione tra la critica della ragion pura e la critica del giudizio. Weil, fin dal 1932, nota e sottolinea questa connessione. Cosa c'è dietro Krüger? Beh, dietro Krüger c'è da un lato il Cant di Heidegger, che come tutti sanno è un libro che Heidegger ha scritto su se stesso, ma non su Cant, perché il Cant di Heidegger praticamente non esiste, è un Cant inventato da Heidegger. Forse qui do un dispiacere a Ruggellini, ma insomma le cose però stanno così, no? Non si può ridurre, basta aprire qualsiasi libro di Kant ad apertura di pagina, non si può ridurre la filosofia kantiana al tema della finitezza, escludendo tutti gli altri, l'infinito, le idee, la ragione, eccetera. E dietro, o contemporaneamente al Kant di Heidegger, c'è Cassirer, che è stato il maestro di Weil e presso il quale Weil ha sostenuto la sua tesi di dottorato in Germania nel 28. E questa è una mia lettura, diciamo così, no? Nel Cant di Cassirer compare abbastanza accentuata la tesi che gli interessi politici e storici del vecchio Kant non sono interessi che si aggiungono, come era stato in fondo per i pensatori del passato, agli altri suoi interessi, cioè interessi speculativi, interessi etici, e poi ci sono gli interessi politici e storici. No, Cassirer sostiene, non del tutto esplicitamente, ma mi sembra che lo faccia capire abbastanza bene, che gli interessi politici e storici di Kant sono il risultato dell'istituzione critica, presa l'istituzione critica nel complesso delle tre critiche, che naturalmente l'ultimo settore, la critica del giudizio, procede in fondo in parallelo con i grandi saggi sulla storia e sulla politica. Ecco, questi sono gli antefatti del Cant di Weil. Lascio cadere tutto il resto, la così l'astuzia delle cose ha voluto che alla fine del mese, nel belfago di gennaio, c'è un mio ritratto abbastanza ampio di Weil, e quindi se qualcuno vorrà vederlo o se qualcuno vuole che io gli mandi l'estratto, è una cosa che farò ben volentieri. Ho applicato anche il saggio su Heidegger, che risale al 47, che Weil non vuole mai più pubblicare, che forse è il saggio più duro e più liquidatorio che su Heidegger sia stato scritto, proprio anche in rapporto alle prese di posizioni politiche di Heidegger. E in italiano non era tra le... ho tradotto molto, ho fatto tradurre molto di Weil in italiano, ma questo non si poteva perché la famiglia non voleva che si riaprissero vecchie questioni. Anche qui, per quanto riguarda la parte della relazione che vi presenterò, cercherò di procedere un po' dogmaticamente in modo di stare entro un tempo ragionevole. Quindi, vediamo se mi riesce di procedere per punti. Primo punto. Sì, è vero, il tema del male radicale è una novità, o sembra essere una novità della religione. Questo per quanto riguarda il pubblico. Invece c'è una lettera a La Vater del 1775, lettera che ai contemporanei però era ignota. C'è anche una minuta di questa lettera che in fondo contiene l'intera filosofia della religione di Kant. Forse è bene scorrere i temi, no? Non per i colleghi, gli studiosi che li sanno, ma vedo che ci sono dei giovani. La lettera contiene i seguenti temi: la pura sincerità delle intenzioni, il drastico rifiuto dell'adulazione di Dio, la distinzione dell'insegnamento di Gesù dal racconto che in quell'insegnamento gli apostoli ci hanno tramandato, quell'insegnamento che ci dice ciò che noi dobbiamo fare per renderci degni del soccorso che Dio può prestare alla nostra fragilità, l'incondizionatezza della nostra fiducia in Dio, che sarà così libera da ogni curiosità indiscreta di sapere come Dio operi, la santità della legge divina, il male invincibile, nella lettera l'aggettivo è unüberwindlich, del nostro cuore, la ricerca nel Vangelo non del fondamento della propria fede ma della sua conferma. Il resto, dice Kant, miracoli, rivelazioni, fatti storici, culti, sono dettagli, insegnamento secondario. Quindi c'è tutto tranne il tema della Chiesa visibile, che riguarda però la funzione del male radicale e non la sua nozione. Lasciamo stare lo scandalo che questa, la pubblicazione prima nella rivista, poi nel libro, ha suscitato, ne hanno già parlato molti colleghi, forse vale la pena di ricordare, perché così si cita un testo di Kant, no? Di ricordare che le reazioni volevano riferire questo tema alla finitezza umana, no? Dice la religione, cito Kant, il male non si trova nelle inclinazioni ma nella massima perversa, quindi nella libertà. E Kant, mi pare l'osservazione a una nota nella prima parte, della prima sezione. Secondo punto, e qui potrebbe essere un tema da svolgere abbastanza nei particolari. Secondo punto, Weil sostiene che la critica della ragion pratica e la fondazione della metafisica dei costumi non presentano un sistema di morale ma configurano il fondamento del principio del discorso morale, l'imperativo categorico fatto della ragione, Kant lo chiama così, no? E il carattere neumenico della libertà, eccetera. E allora, a giustificazione, si può ricordare almeno un passo di Kant che nella prefazione alla ragion pratica dice: questa determinazione, cioè l'uomo secondo la natura con la quale egli realmente esiste, non spetta una critica della ragion pratica in genere, la quale deve solo stabilire in modo completo i principi della possibilità, dell'estensione e dei limiti della ragione pratica, senza particolare riferimento alla natura umana. Gli specialisti sanno che c'è un celebre passo della prefazione alla fondazione della metafisica dei costumi, dove Kant addirittura parla di esseri puramente razionali, che non è detto che siano gli uomini, no? Che possono essere gli uomini, dovrebbero essere gli uomini, ma ipotizza che ci siano esseri puramente razionali, e per questi vale l'esposizione del principio e del fondamento della vita morale. È un punto che ovviamente presento così, poi chi lo vorrà approfondire seguirà il percorso dell'analisi di Weil. Terzo, mi pare che siamo arrivati al terzo, del male radicale potrà occuparsi chi considera l'uomo, no? L'uomo realmente esistente, cioè la metafisica morale, l'antropologia, quell'antropologia pratica della quale parla nelle due prefazioni alla critica della ragion pratica e alla fondazione della metafisica dei costumi. E quindi non è l'antropologia prammatica del 1798, dice che di questo uomo, se vogliamo parlarne, se ne dovrebbe occupare una antropologia pratica. Allora, a questo punto, riflettiamo sulla formula kantiana che mi pare in questi due, no, ieri non c'ero, oggi non è stata, se non mi sbaglio, non è stata citata, l'uomo essere finito e ragionevole. Kant adopera sempre, accoppia sempre questi due termini, sempre, insomma, cerca di, oppure ragionevole ma finito, no? Anzi, la formula più frequente mi pare è ragionevole ma finito. C'è un appetito, facoltà di desiderare, c'è una volontà libertà predicata, trascendente, e la connessione può essere dedotta a priori perché si effettua a mezzo del concetto della legge, cioè di un imperativo categorico che tiene conto solo della presenza della volontà. Vabbè, è inutile, credo, soffermarsi su questo tema, volontà, libertà, ragione, fatto della ragione che per Kant sono, la ragione vede, non so chi stamattina ha detto qualche cosa, ma come fa la ragione a vedere? Ma la ragione vede, Kant lo dice, chiaro, tondo, anche in quella famosa nota del come, cosa significa orientarsi nel pensare. Se parla di fatto della ragione, sono... Kant poi parla sempre di fatto, no? Credo che qui Weil abbia veramente ragione. Kant comincia coi fatti e finisce coi fatti, no? La sua analisi è la sua ricerca è rigorosissimamente analitica, anticostruttivistica. No? Quindi questa... Ecco, nella religione, passiamo direttamente alla religione, Kant sposta, diciamo così, la prospettiva, considera l'uomo oggetto di un'antropologia morale, non l'uomo oggetto naturale di conoscenza, ma in rapporto ai fini delle sue disposizioni, no, quello che chiama Anlagen. Il suo carattere intelligibile si rivelerà nei suoi atti. Qui faccio delle parafrasi un po' del testo kantiano. Non è il caso di ripetere la sua analisi delle disposizioni dell'uomo, distolte, pervertite, il tema del capovolgimento, dalla loro finalità. La debolezza dalla sua animalità come essere vivente, l'insincerità dalla sua umanità come essere vivente e ragionevole, la cattiveria dal suo essere personalità, essere ragionevole e responsabile. E qui c'è stato stamattina un dibattito tra Miegge e Olivetti, e qui mi sembra però proprio che le cose stiano così, no? Deriva il capovolgimento, avviene nella personalità, perché c'è la finitezza, la ragionevolezza e la responsabilità, quindi c'è tutto quello che, diciamo, costituisce la totalità dell'essere umano. una tale cattiveria è una decisione trascendente, anteriore a ogni decisione particolare, visibile, constatabile, o meglio, al di fuori di essa. È una massima cattiva, una massima non della disobbedienza in senso stretto, che prescriverebbe di volere il contrario della legge per se stesso, e quindi non sarebbe più umana ma diabolica. Questo Kant lo ripete nella religione almeno due volte, ma una massima della impurità delle intenzioni e della menzogna di fronte alla propria coscienza e quindi di fronte a Dio. Vabbè, la conseguenza che se ne può trarre, cioè, naturalmente ci sono tante conseguenze che se ne potrebbero trarre, ma è qui che Kant parla di questo male radicale installato in noi in modo inestirpabile, no? Kant dice innato nella natura, ma del quale noi stessi, scusate, non innato nella natura umana, ma del quale noi stessi siamo la causa. È decisione per l'amore proprio, l'amore del proprio io empirico, è stato ricordato anche un momento fa. Kant dice l'origine razionale di tale tendenza al male rimane per noi impenetrabile. Beh, non c'è bisogno di ricordare qui, mi pare qualcuno ha detto, ma quando Kant dice queste cose non si capisce come fa a dirle? No, si capisce benissimo, perché anche fra poco cita le guerre, le cattiverie, cita i comportamenti, non diciamo normali, ma quasi degli uomini, che sono da intendere soltanto come dominati da questa forma di perversità. Bene, cioè non so se va bene, si dice bene per... Bayer ritiene caratteristico del pensiero del XVIII secolo questo procedimento kantiano volto a mostrare la perfezione e la ragionevolezza del cristianesimo. Ma Kant vuol comprendere anche il dogma cristiano e quindi giustificare il cristianesimo non solo come morale ma anche come religione. Di qui la sua ammissione di tutto ciò che l'illuminismo, l'Aufklärung tedesca, negava, no? L'uomo come creatura, Dio giudice, il male radicale, la caduta, di qui la sua stretta ortodossia luterana, un po' in ritardo sui tempi, almeno a sentire il vecchio biografo Borowski, che ricordava lo studio da parte di Kant di uno dei più antichi catechismi, un catechismo del 1732. Ma di qui anche la posizione di Kant come padre di ogni filosofia della religione, sebbene naturalmente non mancano gli specialisti che dicono, dimostrano o ritengono di aver dimostrato che Kant fosse scarso in teologia e poco informato. Ma non sono io che può giudicare di queste affermazioni. Certo, non si possono ignorare le differenze rispetto all'ortodossia cristiana tradizionale. Il peccato originale non è trasmesso, non è trasmesso di generazione in generazione, ma è decisione di ciascuno. Non si pecca per l'influenza di un seduttore, ma è l'uomo che seduce se stesso. Kant non conosce vittima propiziatoria e se l'uomo può contare sulla grazia, per noi inesplicabile. La grazia non è assicurata da avvenimenti storici di sorta. Infine, Gesù è maestro di libertà e responsabilità, ma non è Dio fatto uomo, è l'ideale di un uomo divino, e qui Kant è vicino ai sociniani e agli unitariani, o insomma, è vicino, insomma. Insomma, è un cristianesimo comprensibile alla semplice ragione senza scandalo. Quindi, allora, è questo il punto che è stato notato stamattina da Ruggenini, Kant ha visto il male per ciò che non poteva evitare di vederlo. Senza il male radicale, come passare dal fatto della ragione, dall'evidenza della libertà e dell'imperativo categorico, alla comprensione della moralità degli uomini viventi in questo mondo? L'uomo cerca la sua felicità di essere finito o indigente, e può farlo rispettando l'imperativo. La felicità non è negata, ma è il merito di essere felici, cioè l'accordo di tutte le nostre massime con la legge morale. Contro Schiller, dei tutti ricordate, Kant sostiene il temperamento della virtù, ma usa la parola temperamento in senso tecnico, eh? Parla del cuore gioioso, das fröhliche Herz, nel compimento del proprio dovere. È bella questa espressione che risale a un antico canto della Chiesa protestante, il Te Deum di Martin Rinkert. Il male fonte della morale, allora. Bisogna dire che Kant non procede così, anche se questa è l'idea che domina il suo pensiero. L'uomo non avrebbe bisogno di una legge, non saprebbe neppure nulla della sua esistenza se la sua volontà fosse pura e se non dovesse sempre purificarsi. Siamo sempre tentati di lasciarci tentare e sedurre, e la tentazione stessa è diventata una massima cattiva e della malvagità che lotta non contro la volontà, ma all'interno della volontà. Anche questo è un tema che è stato abbastanza svolto, mi pare, anche oggi, no? La lotta avviene all'interno della volontà contro la volontà pura della massima buona. Certo, queste formule non sono kantiane, ma in fondo questo fondo del suo pensiero, come è stato ricordato stamattina dal professor Malter, questo fondo del suo pensiero l'aveva colto anche Hegel. Anche per Kant il male è, nell'empiria e nell'empirico, la molla del bene, ciò che spinge in avanti l'umanità sulla via della civilizzazione prima, della moralizzazione poi. Il progresso è dovuto all'egoismo, all'insocievolezza socievole, alla socievolezza insocievole degli uomini, alla ricerca dell'utilità più lontana possibile dalla morale, ma tutto questo guidato, segretamente organizzato dall'astuzia della ragione e della provvidenza. E questo è tanto vero che Kant ritiene, mi pare siamo nella sezione ultima, ma mi sbaglio forse, e questo è tanto vero che Kant ritiene l'epoca presente il momento migliore dell'intera storia ecclesiastica, il momento che permetterà al germe della vera fede religiosa di svilupparsi liberamente, così come è stato seminato da individui isolati, è vero, ma tuttavia pubblicamente. Il tema della pubblicità ritorna anche nel saggio sul progresso, una delle parti del conflitto delle facoltà, quando Kant scrive le famose pagine sull'avvenimento, il grande avvenimento del nostro tempo. La pubblicità, la partecipazione, l'entusiasmo, no? Noi oggi parliamo tanto di partecipazione, la politica si rinnova con la partecipazione, ma non si riesce a vedere qualcuno che sia entusiasta, no? E che soprattutto faccia le cose in pubblico. Vabbè, ma è, tanto è così, no? Bene, è la caduta che conduce alla salvezza, un essere che senza quella caduta avrebbe potuto soltanto vegetare. La storia, storia morale e storia in generale, trova il suo inizio nel male, perché il bene non ha storia, come del resto aveva detto Rousseau e è stato ricordato anche un momento fa. La lotta tra il principio buono e quello cattivo è iniziata e va verso la vittoria del primo, perciò che alla fine la lotta può essere annunciata per quello che è sempre stata, ma inconsciamente, e può essere annunciata pubblicamente e liberamente contro tutto ciò che sussiste di errore, di legalismo esteriore, di clericalismo, di concezioni di fatto blasfeme. La rivoluzione del Cristo diventa rivoluzione del mondo morale, rivoluzione morale nel mondo e del mondo che abitiamo. Qui si potrebbe continuare a lungo, ovviamente i miei colleghi, gli specialisti lo sanno, i giovani non lo sanno ma lo impareranno perché correranno stasera subito a leggere La religione nei limiti della ragione. Il tema della rivoluzione è un tema curioso, no? La parola rivoluzione ricorre molto spesso in quest'opera, rivoluzione dell'intenzione, anche questo darebbe ragione a certe suggestioni di stamattina di Miege, rivoluzione pubblica che va letto insieme al tema della pubblicità del messaggio, e qui c'erano queste note di cui vi ho detto un momento fa, l'entusiasmo e la partecipazione. Kant non è dunque il filosofo della morale assoluta, di fatto la sua morale è immersa nel mondo, è la moralità degli individui moralità nel mondo. E il mondo così com'è può e deve essere moralizzato. Siamo sul piano dell'esperienza, esterna quanto interna, sul piano della storia della comunità umana tenuta insieme da leggi positive, comunità di esseri liberi, responsabili, che mira a un regno dei fini da realizzare da parte nostra e qui, in questo mondo, regno terreno che deve giustificarsi con la scomparsa progressiva della violenza, della guerra, della tirannide politica e religiosa. Queste ultime sono espressioni che si ritrovano nel testo kantiano. Ad avviso dell'autore di cui stiamo parlando, quasi finito, il qualcosa di rivoluzionario si è prodotto nel pensiero di Kant, è il risultato della critica del giudizio anteriore non a caso alla religione e ai grandi saggi sulla politica e sulla storia. Ripetuto in una formula, si tratta del fondamento morale dell'unità dei due mondi o regni, della libertà e della natura. Kruger aveva individuato qualcosa del genere. Cito soltanto la nota alla critica del giudizio del paragrafo 83, non resta dunque altro che il valore der Wert, il senso che noi stessi diamo alla nostra vita, è Kant che scrive, non soltanto agendo, ma agendo tanto liberamente e tanto indipendentemente dalla natura che solo a questa condizione l'esistenza stessa della natura può essere scopo. La finalità, come quel principio interiore che fa vivere esseri, che senza quel principio non possono essere compresi e neppure percepiti nella loro specificità. Il mondo si rivela come sensato al solo sguardo dell'essere morale e in quanto quest'essere si interpreta a partire dalla morale. Ma è sempre il mondo che rivela il suo senso, un senso che non gli è imposto o sovrapposto. Così Weil crede di interpretare i paragrafi l'80 e l'87 della critica del giudizio. Ogni essere delle cose, continua la citazione, ogni essere delle cose non si comprende che a partire da un senso esistente, reale, anteriore a ogni fatto e ogni dato, giacché fatto e dato non si rivelano se non a colui che li interroga nella propria ricerca del senso. Allora, ammesso che io sia stato, non dico chiaro, ma abbastanza chiaro, allora in questo contesto sono possibili una filosofia della storia e una filosofia della religione. Il male radicale vi svolge una funzione positiva, anzi è il motore della umanizzazione dell'uomo. Di più, oltre a ciò che sapevamo dai tempi della lettera alla Vater e dagli scritti precritici e critici, la religione apporta un contributo nuovo, essenzialmente nuovo, in riferimento alla storia e alla politica che vi ho rapidissimamente indicato. Il Cristo come rivoluzionario, l'impresa del quale può e deve essere condotta a buon fine oggi, nel nostro mondo, che non sarebbe quello che è senza il male radicale, l'imperfezione, l'insincerità, la malvagità degli uomini, e senza quel regno dei fini che non è semplicemente, e lo si è visto, un'idea nata da una esigenza di giustizia. Il regno dei fini è la rappresentazione ulteriore che Kant fa del fondamento morale dell'azione dell'uomo. Se mi è consentito di aggiungere 12 righe, e chiudo con una generalizzazione, perché sulla scia di Finley e di Momigliano, che ho avuto la fortuna di seguire, ho capito che non basta spiegare, ma bisogna generalizzare, perché se non si generalizza le spiegazioni servono a poco. Chiuderò con una generalizzazione di queste poche cose che vi ho detto e che attraverso la quale credo di interpretare il senso dell'interpretazione di Weil. Alla ricerca che abbiamo riesposto appunto con Weil, Kant lavora nei saggi della seconda parte degli anni Ottanta, quindi nel periodo del rifacimento della critica, e nei saggi e nelle opere degli anni 90, attraverso la morale, o comunque nel contesto della morale e della religione, ma anche della religione libero, no? Che ne dipende. con la mediazione della storia e del suo senso morale, questo Kant l'ha scritto e ripetuto in questi anni continuamente, dunque su due piani, contemporaneamente individuale e sociale, oppure individuale e politico, la filosofia critica scopre la politica è col P maiuscolo, come suo problema interno, non i problemi tecnici della politica, ma il problema della politica che impone domande a una metafisica e a una morale delineate, diciamo pure costruite, anche se non in senso tecnico, perché Kant non costruisce nulla. Detto diversamente, attraverso la storia dell'uomo, dove si può, si deve realizzare la morale, io non perdo mai occasione di ricordare una delle definizioni che Kant dà dell'uomo da vecchio nella antropologia pragmatica, animal rationabile, che è capace di ragione, no? Dunque, detto diversamente, attraverso la storia dell'uomo, dove si può e si deve, o meglio si dovrebbe realizzare la morale, ma quello che conta è dove si può realizzarla, la filosofia critica scopre la filosofia politica, cioè si scopre almeno implicitamente come filosofia politica e quindi in questa dimensione anche come filosofia della storia. E la politica sarà allora, non per Kant, ma per noi, la categoria che consente attraverso questo lungo processo, questa lunga costruzione, di configurare il nostro tempo come qualcosa non solo di ragionevole ma di pensabile, ammesso che il nostro tempo, cioè proprio il tempo nel quale stiamo vivendo in questo momento, abbia in sé qualcosa di ragionevole, ma almeno cerchiamo di pensarlo. Ma di qui si dovrebbe dire, con Aristotele comincia una ricerca diversa, una ricerca altra, che naturalmente vi risparmio. Va bene, ottimo. Grazie davvero all'amico Sigrollo.